noi è una doccia fredda, nel senso che, vabbè, riteniamo un grave atto di abbandono della città da parte del sindaco questo. E se una notizia come questa potrebbe farci piacere, nella realtà dei fatti non è così, nel senso che abbandona la città dopo 3 anni e mezzo nella quale non si è fatto praticamente nulla se non tagliare il nastro del centro culturale che era già posto in essere nella precedente giunta. Ci aspettavamo che si portasse a termine l'iter del PGT, cosa che non avverrà con questa amministrazione, con questa giunta. Il fatto di adottarlo in fretta e furia già domani sera o dopodomani, se mai riusciranno ancora nella giornata odierna a trovare una sorta di accordo che non hanno trovato in 3 anni, che rischia di essere un accordo fatto in tutta fretta, è un brutto accordo, per cui riteniamo che lascia in eredità una città allo sbando dal punto di vista urbanistico, socio e economico. Per quanto riguarda gli assetti politici, è chiaro che questo crea un'accelerazione su quelli che erano le prospettive di andare al voto nel 2014, e dovremo trovare a questo punto una sintesi tra le forze di minoranza della città e capire quali figure potrebbero meglio rappresentare una sorta di programma elettorale che vada a recuperare tutto quello che questa giunta non è stata in grado di fare. Rispetto ai rapporti con la Lega, anche guardando il contesto regionale? Con la Lega credo che si debbano valorizzare i rapporti con la Lega a livello locale, sempre che questi possano poi essere tenuti in considerazione da quello che succederà a livello nazionale. C'è già un accordo di fondo con la Lega di Cinisello, e cioè quello di andare a costruire una candidatura alternativa alla giunta e alla guida della città. Dopodiché è ovvio che siamo tutti in attesa di capire cosa succederà a livello nazionale e regionale. Vorremmo costruire anche qui a Cinisello la possibilità di forze civiche che possano attirare tutto quel elettorato disorientato, deluso da entrambi i poli, tutto quell'elettorato che non ne vuole più sentir parlare di politica a livello nazionale, ma che vuole bene alla città e che vorrebbe scendere in campo e mettere il proprio apporto per costruire qualcosa, un progetto serio per la città. Poi a livello regionale difficile. Io credo che se non si riesca a trovare una condivisione con la Lega ci sarà avremo tutto il dovere di andare a costruire una candidatura che in questo momento mi sembra piuttosto in ritardo. Io sinceramente non vedrei male la possibilità che il PDL alla fine possa recuperare un rapporto con Albertini. Comunque credo si debba fare il possibile per andare a recuperare il rapporto con la Lega, che a questo punto resta l'interlocutore primario nell'ambito della situazione.